essere e avere. In studio con Essere e Avere per il focus sui trend di questa settimana parliamo di casa, di consumi domestici. La domesticità, meglio la sua riscoperta, è una delle tendenze in evidenza in questi ultimi mesi. Parliamo di casa come ambiente di consumo e di autoproduzione, di casa come ispiratrice di nuove atmosfere per i negozi, musei, ristoranti, gli spazi di intrattenimento e di casa come nuova leva per il marketing. Lo facciamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dai cibi ai vestiti fatti in casa, un dato su tutti: negli Stati Uniti la vendita di accessori per le conserve è aumentata del 135% negli ultimi 3 anni, passando per orti e addirittura pollai domestici fino ai negozi casa, dagli house concerts al boom delle vendite a domicilio fino all'homeschooling, l'educazione dei figli in casa. Insomma, la nuova domesticità spopola, se ne sono accorti lì libri, blog, riviste, trasmissioni TV e ovviamente marketing e pubblicità. Patrizia. Sì, domesticità è un megatrend e di fatto è un doppio movimento. Il fuori entra, la casa esce, cioè la casa esce dalle sue mura e il fuori casa entra tra le mura domestiche. Significa che si cerca sempre più un po' di casa ovunque fuori e contemporaneamente si porta nello spazio abitativo le esperienze di fruizione e di consumo tradizionalmente esterne. Dunque vediamo che cosa entra e che cosa esce. La casa, dicevi, come ambiente di consumo diventa un luogo in cui il consumatore contemporaneo è disposto ad essere intercettato, coinvolto dai brand, dal mercato, e dunque questo significa una nuova centralità della casa nelle strategie di marketing multicanale. Ormai famosissimo il caso del lancio di Windows 7 di Microsoft, organizzato proprio con delle feste in case private. C'era un kit fornito a chi fosse disposto a organizzare cene, invitando amici e amici di amici per provare questo nuovo software. Entrano appunto i negozi con le vendite a domicilio tipo Topshop, per fare solo un esempio, che porta i prodotti fisici nel salotto di casa su prenotazione previo invio di una specie di dream list, e tutto questo senza impegno d'acquisto. E grazie alla televisione la casa diventa anche un luogo di consumo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nell'aggio del salotto di casa le vendite via televisore attraverso canali tipo quello di Mediaset, Me Evoluzione di Media Shopping, o il tedesco Home Shopping Europe sul digitale terrestre, o ancora l'americano QVC.